Yao, 9 periodico per sana incoscienza 2009. Max Macete, Noietti e DJ Nevermind. Yo. Sana incoscienza tra le logge, il vizio alloggio. Tutto vero, ti sarai accorto ormai da ciò che sfoggio. Che mi appoggio sopra basi solide, perciò approccio senza limite, senza bisogno mai di avere un tramite. Io che postipite di un losco giro logico nel nostro giro. Tu non dirlo in giro, se vuoi ancora andare in giro senza avere problemi. 9P All Star, mica voi quattro scemi. Come si fa a reggere il peso di una vita allo sbando? La sto facendo mai da tempo che me lo domando. Babbo, non faccio le battle. Dove cazzo corri, Joker, se ti sto inseguendo con il backboard? No, io mix tra male e bene, cause quiete. Seguitemi e vedrete come finirete. Con gli occhi sempre crepe. E se voi non mi credete, volete che io creda alle vostre Urban Legend. Vivo depresso, appresso alle mie turbe. Pressioni diurne, depressioni notturne. Impavido, gravido, tra basi che ingravido. E scarico emozioni, oppresso in un tunnel mentale che ho inglobato da mo. Che mi spinge e mi costringe a spingere hardcore. Al top col flow e col personaggio. Ho tristi blow, mi serve un terzo cazzo. A cavallo dell'hip hop più stronzo. Per fottermi le tippe ballo pure pop porno. L'essenza della troia, spinta ossessione. Delusione vera, senza gioia fredda. Finta il mio nome dall'infanzia marchiato a fuoco. Dall'acqua fredda il frigorifero vuoto. Sono il tipo del tipo adesso sbrocco. Se per voi hardcore è un tipo di giubbotto. Stati di alterata coscienza, stadi alternati di insana incoscienza. Quando è che metti da parte sta falsa innocenza? Raccontamene tu.